famiglie italiane si fidano e preferiscono continuare ad acquistare il farmaco che viene definito griffato. Non lo chiedono neanche al farmacista e comprano appunto per esempio la più nota aspirina della Bayer al posto per esempio del farmaco che ha lo stesso principio attivo, cioè l'acido acetilsalicilico, oppure continuano a comprare l'Aulin al posto del Nimesulide. Allora c'è una iniziativa che è partita nel nord Italia che ci sembra interessante raccontarvi, è stata presentata a Vicenza, Farmacopea, che è la prima linea di farmaci da banco senza obbligo di prescrizione di proprietà di farmacisti. È un progetto che è nato alla fine del 2005 dalla collaborazione fra farmacisti e Unifarm, il loro braccio operativo, proprio per reagire alle sfide del mercato, dicono loro, e delle liberalizzazioni. Allora, buongiorno, dottor Giorgio Trotter, che è presidente di Unifarm Unione Farmacisti del Trentino Alto Adige. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci racconta un po' come è nato questo progetto che vi ha portato adesso ad essere presenti con una distribuzione soprattutto in alcune regioni del nord Italia, ma ovviamente stamattina ci interessa capire anche che progetti avete per il futuro. Intanto, qual è l'origine della vostra iniziativa? Dunque, l'origine della nostra iniziativa parte appunto nel 2005, quando io ero presidente dell'associazione titolari, che è la nostra associazione di categoria, e facemmo un forum ospitati dal Corriere della Sera di Trento, e facemmo un forum appunto con farmacisti, Unione Consumatori, per capire il mercato che cambiava e cosa noi avremmo potuto fare per adeguarci a questo mercato nuovo. E da lì è nata questa idea forte. Abbiamo detto: perché non fare una linea di prodotti fatta dai farmacisti e controllata dai farmacisti? Noi abbiamo, come lei sa e come lei ha appena finito di dire, abbiamo un'azienda di distribuzione che la cui area di azione è nella provincia di Trento-Bolzano e in gran parte del Veneto. Abbiamo avuto un impegno di 4 anni molto forte sia dal punto di vista economico ma soprattutto di risorse, che ci ha permesso di sviluppare questa nuova linea di farmaci che lei ha prima menzionato, che sono parecchie referenze, sono 15 referenze che coprono gran parte del mercato OTC attuale. Per cui abbiamo delle molecole, le faccio qualche... Io ti cito tanto per così spiegare, ecco, sono senza obbligo di prescrizione. Essere, esatto, senza prescrizione medica. Le faccio qualche esempio. Qualche esempio magari, dottor Trotter, anche con qualche esempio di prezzo, perché noi sappiamo già, certo, che mediamente, certo, per esempio, tra l'Aulin e il Nimesulide c'è una differenza di prezzo tra il 25 certo. e il 30%. Io ho un esempio, adesso non so neanche se sia il prezzo corretto, l'Aulin costa mediamente 4,50 euro, il Nimesulide è la metà. Aulin non è un farmaco da banco, ecco, quindi sì. non esatto, intanto ha fatto bene a dirmelo, non essendo una farmacista. Quindi non è, diciamo, l'esempio più azzeccato. Il Lasonil, comunque, per esempio, è il chetoprofene. Per esempio il BVC, che è un prodotto a base di acido acetilsalicilico, costa 6,95. Noi l'abbiamo posizionato sul mercato con questa nuova molecola che è perfettamente identica a 3,90 euro, quindi il 43% in meno. Le faccio qualche altro esempio: la tachipirina, noi l'abbiamo messa sul mercato, la scatola da 20 compresse che costa griffata 4,25, l'abbiamo messa a 2,90. Però vede, è importante sicuramente il prezzo, nel senso che questo si voleva naturalmente. No, ma è importante però soprattutto che si faccia educazione tra la gente, si faccia capire che non sono assolutamente differenti le due tipologie. Il fatto che noi abbiamo voluto dare un'opportunità a tutti i farmacisti che lo vogliono di avere una propria linea sulla quale si possono fidare, perché noi la cosa a cui teniamo di più naturalmente è la qualità di questi prodotti, perché se da una parte è importante il prezzo, dall'altra è molto più importante la qualità. La qualità e le garanzie. Dottor Trotter, dove sono i vostri laboratori? Dove li producete? Nella nostra sede di Trento abbiamo un'industria che si chiama E-Pharma, che è da anni che è posizionata sul mercato e è tra le migliori realtà a livello europeo, che ci ha permesso di sviluppare questa linea. Quindi è, come le dicevo prima, una cosa fatta dai farmacisti, soprattutto con il controllo nostro, perché riteniamo che la cosa più importante sia quella di dare al paziente che viene nelle nostre farmacie una garanzia di qualità assoluta. Dottor Trotter, la liberalizzazione nella vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione ha introdotto degli importanti livelli di competizione nel nostro paese. C'è stata anche una generalizzata riduzione del livello dei prezzi. Qualche mese fa noi abbiamo parlato, per esempio, del secondo principio attivo distribuito dalla catena della Coop, per esempio il paracetamolo, dopo aver distribuito appunto, se non ricordo male, proprio lo stesso principio attivo dell'aspirina, e quindi in sostanza il settore si è ampliato come distribuzione, proprio anche la grande distribuzione. Voi questo tipo di concorrenza come la vedete? Anche loro hanno dei loro laboratori? Allora, è evidente che noi facciamo la nostra battaglia nel nostro ambito. È evidente che i prezzi che può applicare la grande distribuzione sono diversi da quelli che possiamo applicare noi. Però nonostante questo diamo la possibilità a coloro che vengono in farmacia di avere, secondo me, un'importante riduzione del prezzo rispetto al mercato. E quindi in sostanza ben vengano anche queste iniziative, non vi disturbano, non vi spaventano? Assolutamente no, anche perché vede, noi, lei sa benissimo che come azienda di distribuzione di farmaci noi vendiamo sia alle farmacie, ma se ci viene richiesto anche alle parafarmacie e a quanti possano vendere. Ma io le dirò di più, sarei ben felice che venissero delle richieste, perché allora vuol dire che la linea funziona. L'importante, insomma, è questo. Allora, senta, noi abbiamo l'ultima domanda per lei e ovviamente le facciamo anche tutti i nostri migliori auguri affinché questo progetto vada avanti, soprattutto perché poi, come dire, ci sono gli effetti concreti nelle tasche delle famiglie. Per adesso ci diceva Trentino Alto Adige e gran parte del Veneto, ma insomma come pensate anche di sviluppare la presenza di questi farmaci in altre zone d'Italia? Noi adesso abbiamo lanciato la linea a livello nazionale, abbiamo una nostra linea di distribuzione e andremo naturalmente in tutta Italia. Se il farmacista accoglierà questa opportunità, evidentemente riusciremo ad avere un buon livello sul mercato. Benissimo. Io volevo solo ricordarle, se mi permette, un'ultima cosa. Un'altra cosa abbiamo fatto ancora, sempre nel 2005, abbiamo messo sul mercato il neolatte. Il neolatte, lei sa che è un latte per bambini, anche lì abbiamo sviluppato questo nuovo latte che abbiamo preso dalla Germania e commercializziamo ormai in tutta Italia, e lì sì che abbiamo fatto risparmiare veramente molto le famiglie italiane. Ma perché lo prendete italiane dalla Germania, dottor Trotter? Perché abbiamo cercato un assoluto livello di qualità, l'abbiamo importato e lo commercializziamo in tutta Italia e siamo leader di mercato. Quindi abbiamo sempre avuto un po' questa filosofia di cercare di andare nei confronti dei nostri pazienti, clienti, cercando di veramente dargli dei prodotti di qualità, però ad un prezzo che sia giusto. Dottor Trotter, non riesco ad approfondire questo discorso del latte che ci interessa molto, lo faremo magari allora in un'altra puntata, se possibile. Intanto con volentieri. Farmacopea, buon lavoro e buona giornata. Grazie. A presto, Alessandro. Eccoci qua, allora. Eccoci qua. Per allora. Empatia con il nostro ospite Deborah Tossiva. Io guarda, stamattina già comincio ad avere il pizzicore di gola con questa neve, ieri ho patito tanto di quel freddo. Alle 12 la moratoria dei mutui è arrivata, venerdì l'ABI e le associazioni dei consumatori hanno firmato l'accordo e oggi spieghiamo ai nostri ascoltatori un po' in difficoltà come fanno, come devono fare per sospendere per un anno la rata del proprio mutuo. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Il clima di odio spinge menti labili a colpire, lo ha detto Silvio Berlusconi nella sua prima uscita pubblica dopo l'aggressione di domenica scorsa. Io andrò avanti per il bene del paese, ha aggiunto il premier, e la politica intanto si interroga sulla necessità di un accordo per le riforme. Come avete sentito anche poco fa, è ancora una giornata all'insegna del gran freddo in Italia, neve al nord e al centro le previsioni, e a Milano il comune ha invitato e invita a non prendere l'automobile. È stata ritrovata l'insegna in metallo con la scritta "Il lavoro rende liberi", rubata venerdì scorso dal cancello del campo di concentramento di Auschwitz. Per il furto la polizia ha arrestato 5 uomini, la scritta, simbolo dell'ex campo di concentramento, è stata spaccata in 3 pezzi. Infine per il calcio, l'Inter ha battuto 1-0 la Lazio nel posticipo serale, allunga così a più 9 sulla Juventus, sempre più in crisi, è battuta in casa dalla Catania 2-1. Il Milan è a 8 punti dall'Inter, ma dovrà recuperare una partita, quella con la Fiorentina. Ieri vittorie anche per Roma, Napoli, Palermo e Livorno. E allora, le 8:33 minuti, siamo pronti per il sondaggio di oggi. Oggi parliamo di finanziamento pubblico ai partiti politici. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Che poi uno dice, ma come era stato cancellato nel 93 il referendum promosso dai radicali? Sì, era stato cancellato, ma in realtà un finanziamento ai partiti c'è. Ma anche perché, voglio spezzare una lancia su questo, il costo della democrazia ci vuole. Il problema è che quando si leggono alcune cifre, quando per esempio si va sul sito della Corte dei Conti e è inutile che vi dia l'indirizzo, ma poi voi scriveteci bianco e nero tra radio24.it e noi vi diamo l'indirizzo, si legge dettagliatamente la relazione di quanto i partiti politici per esempio hanno incassato per le elezioni ultime, quello del 2008, qualcuno insomma ha un attimo così di mancamento. Allora, innanzitutto la nostra domanda è chiara: il finanziamento pubblico ai partiti secondo voi è giusto oppure no? Devo dire, non so se in un rigurgito un po' populista, comunque l'83% di voi per ora dice di no. Vorrei partire da Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Buongiorno Sergio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il meccanismo attuale, visto che ci fu il referendum del 93 che cancellò il finanziamento pubblico ai partiti, votato dall'85% di italiani che si recarono trionfanti alle urne probabilmente per votare, è questo. Oggi si prende un euro per ogni non elettore ma avente diritto al voto iscritto alle liste elettorali, un euro per l'elezione alla Camera, uno per il Senato, uno per l'europeo e uno per le regionali, 4 euro a cranio, insomma. Cosa è emerso per quel che riguarda, non so, quanto hanno speso e quanto hanno guadagnato i partiti nell'ultima tornata elettorale? Quanto è emerso da questo rapporto della Corte dei Conti? Ma niente di differente da quello che è emerso per tutte le elezioni, cioè che i partiti spendono un euro grosso modo per la campagna elettorale ne incassano circa 4 alla fine come rimborsi. Questa è la proporzione. Il quadruplo. Sì, il quadruplo. Un affare, insomma. Meno. Hanno speso, mi pare, 136 milioni e ne incasseranno, attenzione, non ne hanno già incassati, ne incasseranno perché poi viene spalmato su 5 anni, 503. 503 sono l'equivalente di mille miliardi di lire. Ma è interessante notare, tra l'altro, che il vostro sondaggio coincide più o meno col risultato del referendum del 93. È vero, ancora oggi 83%, sì. Ecco, quindi insomma, certamente non c'è un atteggiamento positivo da parte delle persone nei confronti del costo della politica. Questo va detto. Forse nelle cifre. Io però voglio spezzare una lancia in questa, dire, cioè il costo della democrazia, oppure bisognerebbe toglierlo del tutto e i partiti si finanzino come credono? No, la mia opinione è che bisognerebbe smettere con questa ipocrisia, cioè bisognerebbe ricominciare a chiamarlo come si chiamava una volta, finanziamento pubblico, e naturalmente con delle regole diverse, secondo me, cioè applicando dei disincentivi per evitare comportamenti diciamo poco virtuosi, ma comunque che si chiami finanziamento pubblico, perché si è visto che in tutta Europa, cioè in Europa c'è soltanto un paese dove non esiste il finanziamento pubblico, ed è il Regno Unito. Il Regno Unito finanzia esclusivamente in modo molto marginale i partiti dell'opposizione, però in tutte le altre grandi democrazie europee, la Germania, la Francia, la Spagna, esiste comunque una forma di finanziamento pubblico, perché naturalmente c'è il riconoscimento che i partiti sono in qualche modo la forma organizzativa della rappresentazione popolare, e quindi sono diciamo la struttura portante della democrazia. Questo non c'è alcun dubbio. Il problema è che noi li finanziamo ipocritamente, cioè chiamando rimborso una cosa che rimborso non è, questo lo dice anche la Corte dei Conti, e soprattutto in modo esagerato. 4 euro rimborsati per ognuno speso, questo sarebbe l'affare delle elezioni, con alcuni inghippi, ma poi voglio presentare anche altri due ospiti e parlare con loro. Gli inghippi sono appunto, si finanzia, il rimborso è 1 euro per ogni iscritto nelle liste elettorali, per cui per la Camera, Senato, sempre per 4, uno per la Camera, uno per il Senato, uno per le regionali, uno per le europee, quindi 4 euro. Se uno per esempio non va a votare perché dice a me questo sistema fa schifo, non lo voglio finanziare, lo finanzia lo stesso con i suoi 4 euro. Secondo, lo sbarramento al Parlamento, la soglia è il 4%, lo sappiamo, per entrare al Parlamento. Lo sbarramento invece per avere diritto ai rimborsi è l'1%, cioè un partito che ottiene l'1,01% ottiene i rimborsi anche se non ha deputati eletti. Ma comunque questo è il quadro. Voglio salutare Paolo Cirino Pomicino, buongiorno. Buongiorno a lei. Politico di lunghissimo corso, oggi è consulente, se non sbaglio, del ministro Rotondi, è così? Preside un comitato di controllo sulle amministrazioni pubbliche. Perfetto, e voglio salutare il segretario del Partito Radicale da poco, da non tantissimo, Mario Stadirini, buongiorno. Buongiorno a voi. Tra l'altro i radicali promossero quel referendum. Insomma, Paolo Cirino Pomicino, cosa c'è? Demagogia, qualunquismo, populismo in questo attacco, insomma, a questi rimborsi che un po' fanno storcere il naso? Sì, o i referendum, ma nel caso specifico i sondaggi finiscono sempre per dare un determinato tipo di risposte. Se negli anni 50 avessimo fatto il sondaggio, un referendum, se volevamo o meno l'Europa non sarebbe passata, perché in realtà sindacati, industriali, molti cittadini erano contrari all'Europa. Dico questo non per criminalizzare né il sondaggio né il referendum, ma quello che ha detto Rizzo mi sembra una cosa molto giusta. È ovvio che se voi fate il ragionamento, come fa la Corte dei Conti, che in realtà si spende 1 euro e se ne incassano 4, questo ha i fini elettorali, però non c'è dubbio che anche fuori dalle elezioni i partiti vivono e hanno bisogno di di risorse necessarie per continuare a finanziare, anche quando non c'è l'elezione, tutta l'attività politica. Senza questo finanziamento, come giustamente ha ricordato anche Rizzo, noi avremmo che la politica sarebbe sostituita dalle grandi ricchezze di alcune persone, di alcuni circoli finanziari, cioè non avremmo una politica democratica. Quindi questi soldi che arrivano però, in più servono. Ecco, però io aggiungerei una cosa, che la correzione non solo andrebbe fatta sul piano della denominazione, quindi non più rimborsi elettorali ma finanziamento pubblico. In secondo luogo dovremmo poter ridurre il finanziamento pubblico, garantendo anche ai partiti minori, diciamo, la possibilità di entrare nel mercato della politica, e dovremmo invece consentire un finanziamento privato alla luce del sole e con un certo limite di deducibilità fiscale, insomma, tanto per essere chiari, un meccanismo di tipo del 5 per 1000. Sì. Allora noi avremmo forse un riaggiustamento tra quello che è oggi un'ipocrisia, si chiama rimborso elettorale, ma è finanziamento ai partiti, non solo per le elezioni, ma anche per la normale attività, e consentiremo anche al paese nella sua diffusione la possibilità di partecipare, ripeto, va meno, al finanziamento del meno rimborsi pubblici ma apertura a quelli privati. Non so se con Mario Stadirini si può partire da qua o se bisogna partire da che cosa, Stadirini? La rabbia vostra come radicali per un referendum tradito? Ma no, credo che sia giusto inquadrare bene la situazione del finanziamento pubblico. Allora, è vero, la politica costa, è vero anche che ci sono paesi come l'Inghilterra e l'America che si basano sul finanziamento privato. Il problema qual è? Il problema è che in Italia dal 1974, quando si introdusse la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, proprio per dire che altrimenti avrebbero rubato, abbiamo visto invece cosa è accaduto negli anni successivi, si fece un errore fondamentale. Anziché finanziare il funzionamento democratico della vita civile, cioè sostenere e agevolare le attività politiche dei cittadini, magari pagando strutture congressuali, consentendo assemblee, consentendo appunto di comunicare al resto della cittadinanza, si è deciso di sostenere le strutture dei partiti. Questo è l'errore di fondo che ha adesso vive la truffa dei rimborsi elettorali, rispetto ai quali non bisogna magari pensare di tornare al finanziamento pubblico, ma semplicemente applicare la legge. La legge prevede che solamente i rimborsi, vi facciamo esempio, noi radicali abbiamo combattuto sempre il finanziamento pubblico dei partiti, anche con il referendum, nel momento in cui è arrivato il rimborso, noi effettivamente abbiamo usato, perché adesso non abbiamo più quei soldi, per rimborsare cosa? Quelle spese che avevamo sostenuto per mandare delle lettere durante le elezioni a quei 4-5 milioni di italiani, sì, e che non potevamo informare con la televisione che ci escludeva. Quindi il finanziamento pubblico è sbagliato, uno perché paga le strutture dei partiti, due perché finanzia esclusivamente i partiti in Parlamento e quindi crea partiti di serie B e partiti di serie A, terzo perché lega ai gruppi parlamentari e quindi crea un collegamento diretto tra il gruppo parlamentare ed il partito, quando la Costituzione invece prevede che il Parlamento sia indipendente, il parlamentare. Perché però dice solo quello in Parlamento? Se lo sbarramento è il 4% per il Parlamento, ma chi ottiene l'1%? Non so, la destra di Storace, che non ha deputati, però ha ottenuto più il 2% alle ultime elezioni, quindi ha diritto a dei soldi, insomma, dei rimborsi. No, questo è vero, ma è la modifica delle ultime elezioni perché? Perché sapevano lor signori i partiti stavano utilizzando una regola, quella dello sbarramento al 4%, in realtà per raddoppiarsi i finanziamenti. Oggi ci sono 5 partiti che si prendono praticamente tutto. E perché? Perché si sa che l'Italia stava andando in crisi, per cui la torta della partitocrazia era più piccola e bisognava ridurre i soggetti. Che no, allora, ci sono molti che tra l'altro ci chiedono il sito della Corte dei Conti. Dovete scriverci bianco o nero e tradio24.it e vi diamo il link, perché è una roba un po' lunga all'interno della Corte dei Conti, del sito internet. Non è che se snocciolo tutto questo indirizzo internet, internet impazzite a metà, e quindi vi do tutto. Sergio Rizzo, la questione che ci... un'altra questione che non ho detto è questa: se cade per qualsiasi motivo, finisce la legislatura in maniera anticipata, non è che i soldi non vengono dati, no, vengono dati per 5 anni, cioè dura 2 anni la legislatura, ma vengono dati per tutti i 5 anni, questo è, no? Sì, sì, ma infatti quest'anno, questo è uno degli anni di doppierazione. E certo, si paga il governo Prodi, cioè il governo, la parte del governo Prodi, legislatura, sì. Prodi è questa, insomma. Sì, sì, quella legislatura lì. No, ma comunque se uno va a ripercorrere la strada, la storia di questo finanziamento, di questa forma di finanziamento pubblico, vengono fuori delle cose meravigliose. Per esempio, l'esplosione dei contributi e quindi anche delle spese dipende dal fatto che circa 8 anni fa, con una leggina sempre approvata in 2 minuti dal Parlamento, la misura del contributo venne portato da 800 lire, sì, sì, a, mi pare, a 5 euro. Sì. Quindi diciamo ci fu proprio una esplosione mostruosa. Sì, eravamo partiti da 200 lire, credo, sì, cioè quell'un euro a testa per, sì, 4 euro era 200 lire. Ma soprattutto questa legge venne approvata retroattivamente, perché che cosa accadde? Accadde che c'erano alcuni partiti, tra cui anche l'Italia dei Valori, che non avevano raggiunto il 4%. Allora si fece una modifica alla legge sui rimborsi in modo tale che anche coloro che non avessero raggiunto il 4% venissero, insomma, in qualche modo salvati, reintegrati, salvati, in questo. No, salvati. E ci fu un'esplosione proprio nel 2001, a partire dal 2001, un'esplosione incredibile di questi contributi fino alla misura attuale. L'altra cosa singolare è che sono tutti misurati sui gli aventi diritto, gli iscritti alle liste elettorali, sì, della Camera, anche, sì, per esempio i contributi del Senato. Sì, è vero. Che cosa comporta questo? Comporta che per il Senato, dove gli elettori sono circa 4, 3, 4, 5 milioni di meno, perché come sapete si vota 25 anni, certo, bisogna avere 25 anni per votare per il Senato. Beh, i partiti che si presentano al Senato comunque, anche pur avendo 46, 47, 45 milioni di elettori, li prendono per 50. Per 50, no? Milioni. No, anche questa è una cosa un po' bizzarra e sì, si ride sempre per non piangere. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, finanziare pubblicamente i partiti, siete d'accordo oppure no? Ce la dite sempre, però l'83% dice di no. Vediamo se sono rapidi due ascoltatori. Aureliana da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha lasciato la macchina a casa? Come no, io sto andando a Parma, diventa difficile. Ah, va bene, dica. No, io volevo dire che in linea di principio sono d'accordo con il finanziamento pubblico, forse in controtendenza con bene, il sondaggio, bene, ma in realtà ritengo faccia parte dei costi della democrazia. Il problema, io ho potuto sentire poco degli interventi precedenti, è forse il groviglio di norme che regola in questo momento il finanziamento, insomma, i rimborsi elettorali. Ma sa, groviglio, poi sono tutte anche abbastanza chiare, forse un po' tutte. Sì, però, un po' tutte che tirano. Tutte a vantaggio, ecco. Sono chiarissime in realtà, ma tutte a vantaggio da una parte. Ecco. Condividevo l'intervento iniziale di Stella con delle norme chiare. Rizzo. Anche severe, la cosa si potrebbe fare, a mio parere. Sì, è Sergio Rizzo, ormai Rizzo Stella, viaggiano in coppia. Giuseppe, grazie Aureliana. Giuseppe dalla provincia di Varese, dica. Sì, buongiorno. Io sono assolutamente contrario come principio al finanziamento pubblico dei partiti, ma soprattutto quello che non riesco a capire è per quale motivo nei vari referendum i cittadini vengono chiamati ad esprimersi e i poi cittadini si esprimono e poi i politici, per autodifesa della casta, non voglio fare pubblicità al libro di Rizzo e Stella, introducono, si fregano bellamente, accattocciano il risultato del referendum e vanno avanti tranquillamente. Oh, allora, no, Giuseppe, la ringrazio per questo. Voglio girare questa domanda a Paolo Cirino Pomicino. Non si offenderà Cirino Pomicino se io dico, visto che c'è gente che la identifica come un emblema della casta, di quella casta del passato, che ne pensa di quello che ha detto Giuseppe alla provincia di Varese? Quando c'era la mia casta, tanto per ripetere le parole passepartout introdotte dall'amico Rizzo e dall'amico Stella, il finanziamento pubblico era 15-20 volte di meno o 10 volte di meno, insomma era molto meno all'epoca, da un lato. Dall'altro io insisto che sulle difficoltà e sulle anche contraddizioni dei criteri di ripartizione del finanziamento pubblico attuale nasce da quella ipocrisia che lo stesso Rizzo ha iniziato a dire, e cioè questo non è un finanziamento di rimborsi elettorali, ma è un finanziamento politico dei partiti. Uno. Due, io insisto sul discorso pubblico-privato. A chi in realtà dice di non volerlo fare, mi deve spiegare. A questo punto ci deve fare la politica in Italia? Quelli che sono ricchi, per cui accanto al finanziamento non pubblico dei partiti avremo il finanziamento personale, per cui i partiti saranno personali. Aggiungo una cosa importante che credo non debba essere dimenticata: proprio per l'esistenza del finanziamento pubblico noi dovremmo dare anche attuazione all'articolo 49 della Costituzione, che imporrebbe ai partiti un metodo democratico al proprio interno. Sì, ma l'ascoltatore ci ha posto anche questo problema, cioè noi votiamo e poi non conta il nostro voto, perché non so, qua Staderini vuole pane per i suoi denti, insomma, visto che i radicali. Esattamente, noi stiamo parlando di costi della non democrazia. Subito dopo il referendum del 93, quando fu introdotta la legge sui rimborsi, noi facemmo come comitato promotore un ricorso alla Corte Costituzionale perché era evidente che la legge era incostituzionale. Purtroppo la Corte Costituzionale non ammise proprio il nostro ricorso per motivi procedurali. E questo è il motivo per cui magari si sono anche ammazzati la credibilità del referendum. Ma io vorrei ricordare che non si tratta di ipocrisia, si tratta di una vera e propria truffa nel momento in cui si fa qualcosa diverso dalla legge. Noi radicali, io personalmente da 30 giorni sono segretario di un partito che ha 300.000 euro di autofinanziamento l'anno nei confronti dei 200 milioni che prende il Popolo della Libertà. Come radicali abbiamo restituito il finanziamento pubblico con Radio Radicale negli anni 70, l'abbiamo dato alle vittime del terrorismo quando lo Stato neanche ci pensava, l'abbiamo restituito proprio in piazza con i soldi. Allora, si può fare politica diversamente, l'importante è che non continui il modello di partito-Stato, quello che ci ha dato il fascismo, che peraltro è un modello che riguarda un po' tutto, sindacati, chiesa, cioè non dimentichiamo che il Vaticano italiano prende con l'8 per mille 1 miliardo di euro l'anno, quando la politica ne prende tutti insieme 200 milioni. Beh, se oggi il Vaticano ha un peso più forte della politica, magari dipende anche da questo. Questo però apre ad altre cose, ma io vorrei chiudere. Michele da Padova, ce la facciamo, un ascoltatore. Michele, sia sintetico, vada al punto. Ah, sì, una cosa semplice. Dica. Noi abbiamo tante leggi che danno soldi ai partiti, sì, nelle elezioni e anche per altre cose. L'apparato politico italiano è quello che spende più di tutti, più di Spagna, Francia. Quindi... è possibile che non possiamo imitare le regole che ci sono negli altri paesi? E che le devo rispondere? È possibile, Sergio Rizzo? È possibile imitare gli altri paesi? Sì, ma se certo si vuole. Assolutamente sì, ma basterebbe fare una media europea e vedere un po' qual è la media del finanziamento pro capite dei cittadini e poi magari regolarsi su quello, voglio dire, non è molto difficile. Però la cosa fondamentale è che bisognerebbe introdurre a fianco una forma di finanziamento pubblico più decente, diciamo, anche delle regole di per disincentivare i comportamenti. Per esempio, i partiti che non fanno un congresso ogni 2 anni, ogni 3 anni, devono avere una riduzione del finanziamento pubblico. I partiti che non rispettano le pari opportunità loro nel gruppo dirigente, la stessa cosa. In Francia, per esempio, ci sono regole di questo tipo. Meccanismi di sanzione per chi non rispetta alcune regole, anche questo è interessante. Io mi devo fermare, però, ringraziando Sergio Rizzo del Corriere della Sera, Paolo Cirino Pomicino, Mario Staderini, che è segretario del Partito Radicale. Ci fermiamo, scriveteci bianco e nero e radio24.it. Vi diamo il link della Corte dei Conti, dove c'è la relazione che vi studiate per bene durante le vacanze di Natale. Grazie a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino. A domani.